Melog. Cronache meridiane di Gianluca Nicoletti. La casa è per me, sa, vivo ancora con i miei genitori ed è decisamente arrivato il momento di andare via. No, dico, ci ha pensato bene ad andare via di casa così, senza un motivo? Senza un motivo, c'ho quasi 35 anni. E che significa? No, lei mi deve dire dove sta scritto che uno a 35 anni deve andare via di casa, dove sta scritto? E il profumo della biancheria appena lavata? E quello dei tortellini in brodo d'inverno, col freddino? E la mela grattata? La spremuta? Ma te ti controlla la notte per vedere se ti sei scoperto? Sì, certo. A te lo mette l'asciugamano sul termosifone prima di vantare la doccia, rispettate. A me mi mette pure un cioccolatino sul comodino, ma tutte le sere. E poi senti, guarda sta camicia. Com'è? È perfetta. Non ti crede che in tintoria te la fanno così? No, lo so. E allora ando cazzo voglio annà? È stato un momento di debolezza. E superficialità. Ma insieme... Sembra una gag surreale. Ricky Memphis che faceva l'agente immobiliare. A 38 anni viveva ancora con la madre, felice di vivere con la madre, deve proporre l'appartamento a uno che aveva preso la decisione di uscire di casa, andare a vivere da solo, a costo di rimetterci nel suo lavoro. Dice: ma che sei pazzo, vuoi lasciare tua madre, ma vuoi mettere, vedi, la camicia come ce l'hai addosso, chi te la stira? E l'altro dice: sì, ho avuto un momento di debolezza, ma tornerò a casa con la mamma. Ma sembrava surrealità, è tratto dal film Immaturi di Paolo Genovese, un film del 2011, racconta la storia di un gruppo di ragazzi che avevano fatto la maturità assieme. Poi dopo altri 20 anni si scopre che non funzionava più la maturità, nel senso perché uno dei membri della commissione non era laureato. Insomma, devo rifare l'esame di maturità a 38 anni e si rivedono tutti assieme per studiare e dare la maturità. E tra i vari personaggi, tutti immaturi naturalmente, tutti con vari problemi, tutti non realizzati come la loro generazione ormai da manuale, c'è appunto questo che viveva ancora con la madre. Era felice, pieno di sé, di vivere con la madre. Sembra un paradosso, no, perché finalmente sono usciti i dati di una ricerca Istat che è stata fatta nel 2012. 7 milioni di under 35 vivono a casa coi genitori. Sono il 61% tra i ragazzi, non sono sposati e stanno ancora coi genitori, belli, felici, tranquilli. Voi che ne dite? Avete esperienza di questo? È proprio vero che forse è la condizione migliore? Perché prendersela? Perché stracciarsi le vesti? Perché pensare ci possono essere dei modelli alternativi? Finché sono vivi i genitori, se la mamma continuerà tutta la vita anche sulla sedia a rotelle, paralizzata, finita, distrutta, a stirarci le camicie, a farci il sughettino che ci piaceva quando eravamo bambini, se abbiamo il piacere di stare in quelle belle lenzuola di bucato, perché? Perché voler cambiare vita, perché volersi avventurare in delle responsabilità? Che ne pensate? 800 24 00 24. Ne vuoi altri due? Non passa, adesso altri due? Tipo, ma tu una sera a cena fuori mai, eh? Che fammi bene? Che insomma, sto tanto bene a casa, non senti che roba? Non ci hai pensato mai che la sera, ogni tanto così, eh? A me e tua madre ci piacerebbe stare da soli, una cenetta intima, un bacetto, una cosa... Se vi raggiunge niente mi fa impressione, papà. Il problema c'è, ma vuoi dire, vaderci? Tutto un paio d'ore ti bastano a te, no? Ma che te ride, No, dico, se è per questo basta che scenda a comprare le sigarette, eh? Ah, ecco, siamo di spirito questa sera, bravi, bravi. E se ti annassi a te, una sera una cenetta intima, eh? Vuole di cannappia di sigarette, ci andate voi. E dove la porti poi, sul letto a castello? Dai, Luigi. Dai, Luigi, un cazzo! Te ne devi andare da casa. Ti si dice per te, per il tuo bene. Lo capisci o no? No, non lo capisci. È bello che i genitori, in realtà, i genitori non sono affatto anziani. Probabilmente avranno più o meno la mia età. E chiedono a questo figlio... succhia sangue che ancora vive con loro, ma è felice, figuriamoci, sta talmente bene. Dice, ma se lei ci venisse voglia a starcene un po' da soli, magari, cioè, non è che tu te ne puoi andare un giorno da casa. Dice, ma che volete, scendo un attimo, fate quello che volete, ma non me lo dite perché già mi impressiona. Il figlio che non ammette, pur avendo 38 anni, che i genitori possano aver diritto a una loro vita sentimentale, piacevole, sessuale, coniugale, di libertà. No, lui ormai è figlio loro, lo sarà finché loro non saranno esauriti, finché ancora non esisteranno. Questa è la realtà, questo vogliamo che sia il mondo del domani, ma può anche darsi che ci stia bene ai figli e stia bene ai genitori. Stando agli ultimi dati disponibili relativi al 2012, i ragazzi tra i 18 e i 34 anni che abitano con i genitori sono diventati quasi 7 milioni, circa 30.000 in più rispetto al 2011. Lo registra il rapporto sulla coesione sociale elaborato da Istat, IMSS e Ministero del Lavoro. È una tradizione italiana storica, peraltro, ma accentuata da due aspetti. Una, dalla difficoltà di trovare un lavoro sufficiente per potersi mantenere, e anche dall'enorme difficoltà di trovare case in affitto a un prezzo basso. Il fenomeno è non a caso più accentuato al sud, dove la crisi ha lasciato... Ci saranno sicuramente delle ragioni tecniche, non voglio dire, non voglio sottostimare i problemi, però chi proprio ce la vuol fare ce la fa, chi proprio decide di svolgere questo rituale atto di affrancamento dai propri genitori se ne va, magari fa una vita grama, magari rinuncia alle camicie stirate così bene, rinuncia al soffrittino e come lo fa la mamma non lo fa nessuno, ma la propria libertà non ha prezzo. Ma chi invece la pensa così si crogiola in questo modello. Stefania, buongiorno. Sì, buongiorno, salve. Spenga viva voce tutto quello che... Come? Sì, c'è solo il telefono. Sì, ma sento come sento un ex, è una stanza vuota. Sono una stanza vuota, sì. I mobili se li hai venduti, cos'è successo? No, allora senta, niente, io sono perfettamente d'accordo con, diciamo, con la condanna, tra virgolette, di chi ritiene che da una certa età chiaramente non si può stare con i genitori. Ed è esattamente la scelta che ho fatto io, amavo la mia libertà, mi sono comprata una casa. Salgo poi dove... Per ancora a... comprare i mobili, sento, dal vuoto che la circonda. No, questo è un altro trasloco che ho fatto, poi se vuole, insomma. Però il discorso è che praticamente sono dovuta rientrare a casa perché la mia mamma si è ammalata e quindi... Vabbè, molte volte, guardi, è il tipico ricatto, i genitori si ammalano sempre quando i figli si allontanano, guardi, ho una casistica larghissima. Ma la mia mamma è malata di Alzheimer, io non so se la colpa è del mio allontanamento, non credo, perché comunque... Sì, insomma, comunque io non voglio sembrarle spietato, ma siccome gioco forza che a un certo punto un essere umano si ammali, questo significa la necessità del figlio doversi rioccupare mettendo da parte la propria vita del genitore malato. Esistono molte soluzioni umanissime e efficacissime per occuparsi di persone che hanno la malattia dell'Alzheimer senza dover diventare i loro badanti necessariamente. Devono, perché io posso delegare una badante, quella vera, soltanto che la badante mi ci sta un tot di ore al giorno, però poi la notte, le emergenze, l'ospedale, tanto che ho dovuto addirittura rinunciare al mio lavoro perché era proprio improponibile, insomma, poter, chiaramente non è stato avanzato. E nella mia situazione ci sono anche altre persone, per esempio una cugina che purtroppo non può allontanarsi dalla sua mamma, perché la sua mamma non vuole rimanere sola, non vuole una badante, lei vorrebbe sposarsi, però chiaramente... Beh, il suo è un caso limite, quello di sua cugina è già un caso di tirannia di madre che non vuole rimanere sola, ma non lo so, uno a un certo punto, secondo me, scusatemi una spietatezza, deve compiere un omicidio rituale dei propri genitori e dire: oggi inizia la mia vita, la vostra vita l'avete avuta, avete gli strumenti per potervela gestire, se ce li hanno, se no si provvede perché ce li abbiano, gestirvela in maniera decorosa, però basta, non posso più il problema dei genitori, perché sennò non si vive più, sennò la sua vita sarà tutta assorbita fino al barlume di vita dei suoi genitori e poi dopo si ritroverà lei a guardarsi intorno e dire: la mia vita dov'è? Roberto, buongiorno. Sì, buongiorno. Sì. Allora, che ce ne passa, fa fare il bamboccione a 30 anni e doversi occupare poi di un genitore malato. Come vede, mettono tutto nello stesso calderone perché si cercano dei motivi giustificatori. Ma io però non vorrei criminalizzarvi troppo questi ragazzi. No, chi li criminalizza? Nel senso, io personalmente sono andato via di casa a 19 anni, quindi sono forse il caso limite al contrario. Mia madre fortunatamente mi ha dato tutti gli strumenti per poter vivere autonomamente, gestendo anche quelle che erano le pulizie della casa, farsi il bucato, eccetera. È autonomo, quindi gli ha dato l'autonomia. Sì. Beh, io ormai ho 47 anni, quindi ne è passato di tempo. Però è anche vero un'altra cosa, cioè noi oggi abbiamo una disoccupazione giovanile che è al 41,6%. Io non credo che una percentuale così alta possa essere imputata completamente alla mancanza di volontà dei giovani. Per cui, se uno non ha un lavoro, se l'economia non è stabile, ma come fa a darsi un'autonomia, a mettersi su casa? Cioè, quindi il problema è semplicemente che non si trova lavoro, non hanno dei lavori adeguati alle loro esigenze e quindi naturalmente rimangono in casa e aspettano e passa il tempo. È una situazione legata al momento. Vediamo se le cose stanno esattamente così. Professor Piero Paolicchi, buongiorno. Buongiorno. È professore di psicologia sociale all'Università di Pisa. Ha scritto La variabile G perché ci vogliono tanti genitori per non fare un imbecille, Rizzoli. E ultimamente è in uscita, diciamo da pochi mesi, è uscita una nuova pubblicazione sullo stesso tema, Genitlix, genitori in rivolta, ETS editore. Vediamo se realmente le cose secondo lei stanno così, che c'è un problema oggettivo di mancanza di lavoro, quindi i giovani non hanno lavoro e se ne stanno a casa. Ma io credo che quando ci occupiamo di un fenomeno così complesso non dobbiamo commettere l'errore di privilegiare una variabile sulle altre, perché sono certamente molte che si intrecciano. In Italia abbiamo una tradizione culturale di lunghissima data che fa della famiglia un luogo in cui si trovano, diciamo, sicurezze, relazioni, a differenza di altri paesi. Già una ventina d'anni fa, diciamo, in paesi anglosassoni, il momento in cui si entrava al college era quello del distacco dalla famiglia, perché si andava sempre in una università lontana che non era mai sotto casa. Quindi per noi la persistenza è geneticamente elaborata come qualcosa che fa parte del nostro costume. Certamente, ci sono queste radici culturali e sociali, ma dobbiamo tenere presente un fatto. Quando, cioè, questo il mammismo culturale o psicologico dei giovani italiani non può aver subito una espansione come avverrebbe per una infezione virale. Se quando un fenomeno appunto si amplia fino a diventare, se non maggioritario, comunque estremamente diffuso in una società, io suggerirei di ricordare un'osservazione molto acuta di un certo Antonio Gramsci, che forse aveva un po' il difetto di essere un pochino comunista per i palati attuali, ma aveva osservato, con, secondo me, con grande lucidità, che quando un fenomeno che si discosta dalla media in una certa situazione assume una consistenza numerica, una diffusione di un certo tipo, non possiamo imputarlo a variabili insite nei singoli soggetti che lo manifestano. Quindi, diciamo, ora, secondo il modello gramsciano, è qualcosa che accade nella società, non è colpa dei ragazzi, ecco, ma è dovuto sicuramente, anche se non principalmente, a processi in atto nella società stessa. Ora, certo sappiamo che, per esempio, perfino la nevrosi, come ci diceva Freud, presenta dei vantaggi secondari che inducono a restare in quella condizione piuttosto che a tentare di uscirne, no? Però quindi l'uscita da una condizione che ha i suoi aspetti negativi, insomma, la dipendenza, l'impossibilità di organizzarsi una propria vita affettiva o semplicemente di relazione se si vive in casa con i genitori. Ci sono questi aspetti negativi, ma ci sono anche gli aspetti positivi, appunto, della camicia stirata e del sì, però guardi, non c'è camicia stirata che a me mi costringerebbe a ritornare in una situazione adolescenziale, ma non esiste il sughetto, non esiste tranquillità, io andrei a lavare i vetri piuttosto che l'incubo della mia cameretta con la mamma che sta dietro la porta. Un istante, certo. Informazione del traffico, a tra poco. Melog, cronache meridiane. Papà! Abbi in quel salsero, sono di questi luoghi. Ha voglia infame! Allo, papi! Ma i papi, vero, sta sgazzando. Sarà, papi, esce il tutore notturno qua. Guarda che nazza, ma buttate le chiavi. E state zitto, papi, te li fa conoscere a tutti, c'è il tutore notturno. Io sono Maccioletti, però, posso rientrare quando voglio. Posso pure rientrare alle 3 di notte, però. Ho più di 21 anni. Capito? Ti fate caso, è quello mezzo scemo, sapete? Certo, è un problema dei nostri tempi, determinato dalla crisi sociale, dalla crisi economica, dal fatto che non si trovi lavoro, ma Alberto Sordi L'americano a Roma era l'immediato dopoguerra, erano gli anni della rinascita, della ricrescita, delle grandi occasioni. E già rappresentava in una delle sue tante macchiette dell'italiano medio il bamboccione che non andava mai più di casa, innamorato del suo sogno americano, ma gli americani erano dietro la porta, erano i liberatori, era roba recente e già da allora comunque esisteva questo tipo umano, che oggi viene rappresentato dall'Istat in 7 milioni di ragazzi che hanno sui 35 anni, che vivono ancora felicemente coi genitori. Qualche parere che leggo dagli SMS: ho 25 anni, vivo con il mio amoroso coetaneo, un incubo, i miei genitori sono spartiti le cene, cioè vanno una sera a cena dai suoceri, dai quasi suoceri di lui, e una sera a cena dai quasi suoceri di lei, quindi è una sorta di dislocamento temporaneo della propria esistenza. Per un altro ascoltatore il problema sono quei genitori, soprattutto mamme, che fanno di tutto per tenersi i figli in casa perché sono la scusa per non trovarsi a tu per tu con il marito. Sono quelle coppie che non sono coppie perché hanno sovrapposto i figli al loro rapporto e non sono più tornare indietro. Verissimo, una realtà sacrosanta. Poi, ancora col fatto che i giovani vivono in casa con i genitori ma senza lavoro, con i stipendi da fame, dove volete che si vada? Ci sono padri di famiglia che devono avere ancora la paghetta dai genitori e dai nonni perché non prendono a sufficienza. Questa è la teoria di Danilo Maso Masotti, per cui l'umarell è il vero perno, il vero cardine della società contemporanea, il pensionato con i suoi lavoretti, con i suoi risparmi, ancora tiene in vita i giovani. Andrea, come la pensa? Pronto? Sì, Andrea. Buongiorno Nicoletti, ho 29 anni, sono da 4 anni a Milano, sono un lavoratore autonomo, nulla, volevo raccontarti di due miei colleghi, io faccio il fotografo, quindi anche questi ragazzi. Ma tu torneresti indietro? Assolutamente no, assolutamente no, no, no, no, no. Sono cresciuto tantissimo da quando ho dovuto urlare a mia mamma di non inviarmi più denaro. Beh, è stato un bel gesto. Ti ha affrancato dal ricatto materno, almeno potrei più dirti, con la sofferenza per cui ti ho generato, ti ho mantenuto, la tua vecchia mamma. Nicoletti, il ritornello era questo. Certo, ma lo so bene. Io ho dovuto intraprendere un percorso di psicoterapia per arrivare a questa roba, per affrancarmi, per prendere le distanze sia fisicamente e poi economicamente. Io sono convinto che esista un numero enorme di genitori assassini, mamme assassine, senza che necessariamente usino la mannaia o il coltello, ma è un lento uccidere succhiando il sangue e la vita ai propri figli. Esatto, è questo affetto mieloso che ti intrappola lì e poi queste paure che ti mettono addosso perché il mondo è cattivo e solo la mamma ha la soluzione e quindi con questo miele ti intrappola lì, ti sporca le ali e non riesci più a volare. Ma io ho cari amici e care amiche che vanno oltre la quarantina di gran lunga, che ancora hanno queste mamme che li si piantano in casa, non se ne vanno, li controllano, guardano nei cassetti, sembrano le giudici e giudichesse della loro vita personale. E poi ogni tanto, se si ribellano, si ammalano. Allora è presente non occuparsi dei genitori ammalati. Vabbè, vediamo la storia dei suoi amici. Due colleghi che fanno? Due colleghi, uno è a Parma, l'altro è qui a Milano, sono rispettivamente di 31 e di 28 anni, quindi uno più grande e l'altro più piccolo di me. Il più grande quest'anno vivono entrambi con i genitori, uh-huh. il più grande ha fatturato 115.000 euro quest'anno e il piccolo ne ha fatti una sessantina. Quindi potrebbero vivere da soli tranquillamente? Sì, sicuramente. Con 115.000 euro, certo. Sicuramente non si sanno stirare le camicie bene come lo so fare io, perché ho dovuto imparare. Quindi no, lei vuol dire che questi, pur avendo un'autonomia economica, continuano a stare in casa, perché magari possono avere più disponibilità cash, non dovendo pagare affitto, stiratrice, cuoca e domestica e via dicendo, però stanno con la mamma. Sì, però attenzione, questa è gente che sono dei giovani imprenditori e per fatturare tanto lavorano tanto, non avrebbero tempo per magari gestirsi l'autonomia. Poi sicuramente ci sarà anche una scelta. Scusa, io ho un'idea, che l'autonomia non abbia prezzo. meglio stare in un sottoscala e mangiare pane e cipolla e però avere il completo dominio, le chiavi di quel sottoscala, che stare in una casa accogliente con le camicie stirate. Ma questi suoi amici, quando hanno un'amica da portarsi a casa, cosa fanno? Vanno in albergo? Vanno nello scannatoio? Faccio l'esempio più stupido. Vanno nelle spa, con quello che fatturano, ci permettono anche delle belle vacanze. Ma perché allora invece di andare nelle spa non si prendono un appartamento e lo tengono come fosse casa loro e ci vivono la loro vita? Questo mi domando. Evidentemente c'è comunque, nonostante siano bravi imprenditori, evidentemente, ma comunque c'è un cordone ombelicale. Ma pensi che botta di vita, andare nelle spa, farsi fare i massaggi, poi portare le mutande a lavare a casa alla mamma? Ma questo toglierebbe immaginario erotico anche alla più disinibita delle donne. Paolo, lei come la pensa? Paolo da Verona. Sì. Sì, io ho 44 anni, ho sempre lavorato, sempre autonomo. Ho sempre vissuto in casa con la mamma e mi stirava le camicie, però c'era uno scambio tra adulti, insomma, interessante, anzi, per me è stata una ricchezza. Ci siamo sempre rispettati e abbiamo sempre collaborato. Mai avuto problemi di portare a casa la fidanzata, avevo il mio studio, la mia cameretta, non si è mai intromessa. Anzi, bussava e portava il cappuccino la mattina. Una ricchezza, no, lei alle volte si svegliava prima, me lo preparava, facevamo colazione assieme, oppure se mi alzavo prima io lo preparavo io. Però ma non si metteva nei panni della persona che veniva a casa lei, che doveva avere il controllo di una mamma fuori dalla porta? Ma pensi che angoscia? Ma no, ma guardi, ma come no? Alla fine dei suoi giorni non c'è mai stato, dopo dipende la mamma, cioè se la mamma capisce a un certo punto che il figlio è adulto e ha bisogno del suo spazio. Cioè, se proprio andava con le sue amiche a bere il caffè, se proprio, ma non è ma uno come può portare il pacchetto mamma quando si presenta al mondo, un essere umano adulto, dire io c'ho anche la mamma? Cioè, io non lo trovo concepibile, però magari lei mi può convincere, non lo so. Ma guardi, siamo sinceri, la mamma è una persona speciale, se vogliamo, è impossibile che ci sia questa divisione. Sì, ci può. Ma io a un certo punto penso la mamma vada metaforicamente ammazzata e uno pensare alla sua vita. Non ma può durare tutta la vita. No, è una ricchezza. Se c'è uno scambio tra adulti, anche una. Lei con chi vive? Vive con la mamma ancora tuttora? No, la mamma adesso è morta, sarà un paio d'anni. Però io avevo anche un appoggio nei momenti magari di stress o di lavoro. C'era uno scambio interessante anche di consigli di vita quotidiana. Ascoltatrice in ascolto, Paolo, ve lo sottopongo, è l'uomo ideale che potreste sposare, che ha un così alto concetto della donna, della propria mamma, che non vedrà l'ora di trovarne una uguale, ma che non sarà mai all'altezza del modello, e quindi attrezzatevi in proposito, perché questo sarà il vostro futuro. A domani.